pronti? Dottore. Partito. Ciak. Azione. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Piccole donne di Gillian Armstrong. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. È la storia di quattro sorelle che vivono nel Massachusetts all'epoca della guerra civile americana. Jo vanta ambizioni letterarie. Meg e Amy preferiscono la vita mondana, i salotti e gli ammiratori. Beth, la più piccola, ama la musica. Quando il padre parte per la guerra, le quattro ragazze si stringono attorno alla madre. Sotto la sua guida e grazie all'amicizia con il giovane Lori, affronteranno le vicissitudini e i problemi tipici dell'adolescenza. Audiogrammi in radio come al cinema. Le mie sorelle ed io ricordiamo quell'inverno come il più freddo della nostra infanzia. Alcuni anni prima, una temporanea povertà si era abbattuta sulla nostra famiglia. La guerra aveva fatto scarseggiare il combustibile e il petrolio per le lampade, ma la necessità aguzza l'ingegno e in qualche modo, in quegli anni bui, sembrava che la nostra famiglia, la famiglia March, non avesse perso la luce della gioia. Benché il tappeto fosse logoro e i mobili molto vecchi, il salotto dove erano riunite le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, era reso gaio e piacevole da due bei paesaggi appesi al muro, dalle rose di Natale che fiorivano alle finestre e dall'atmosfera di pace casalinga che pervadeva ogni cosa. Margaret, Meg, la maggiore delle sorelle, aveva 16 anni ed era molto carina. Aveva gli occhi celesti, una bella chioma di capelli castano chiaro e delle belle mani delicate a cui teneva molto. Josephine, o Jo, come la chiamavano in famiglia, era alta, magra, scura di carnagione ed assomigliava un po' a un puledro non ancora domato, perché non sapeva mai dove né come tenere le lunghe membra che sembravano esserle sempre d'impaccio. Aveva un'espressione risoluta nella bocca, un naso bizzarro ed occhi grigi che sembravano vedere tutto e che potevano essere di volta in volta severi, furbi o pensierosi. I vestiti quasi sempre scuciti che le cascavano di dosso e l'aria di una ragazza che sta trasformandosi rapidamente in donna ma che vorrebbe rimanere una bimba. Elizabeth, o Beth, era una rosea fanciulla di 13 anni tutta pace e timidezza, con una passione per le bambole rotte delle sorelle maggiori e i gattini randagi, e un amore profondo per la musica e il pianoforte. Senza regali questo Natale non sembra neppure Natale. Vorrei disperatamente delle matite da disegno. Io vorrei non dover lavorare per la prozia March, quella vecchia bispetica spilorcia. E tu, Beth, cosa desideri per Natale? Vorrei che la guerra finisse, così papà potrebbe tornare. Oh, dolce Beth. Piacerebbe a tutte noi. Hanno davvero un bellissimo pianoforte. Quando diventerò una scrittrice, ti comprerò il più bel piano di tutto l'universo. Vedrai. E se non lo farà, potrai venire da me a suonare il mio. Quando mi sposerò, sarò disgustosamente ricca. Amy, la più piccola, era un personaggio importante, secondo la sua opinione almeno. Era bianca come la neve, con occhi celesti e di folti capelli biondi le scendevano in lunghi boccoli sulle spalle. Era pallida e magra e faceva sempre tutto il possibile per comportarsi sempre come una vera signorina. Suonarono le 6 e Beth, dopo aver spazzato la cenere dal camino, prese un paio di pantofole e le avvicinò al fuoco per scaldarle. La vista delle vecchie pantofole parve avere una buona influenza sulle sorelle. Sapevano che la mamma doveva arrivare tra poco e tutte e quattro si prepararono per riceverla. Meg smise di predicare e accese il lume. Amy si alzò dalla poltrona della mamma senza che alcuno glielo chiedesse e Jo si dimenticò di essere tanto stanca, tolse di mano a Beth le pantofole della mamma e le tenne vicino al fuoco. Mami! Mami è tornata! È tornata! Finalmente! Che gioia! Mami! Mami! Non vedevamo l'ora che tornassi! È da un pezzo che ti aspettoriamo! Si dice aspettiamo, zucca vuota. Sei gelata, mami. Sì, se vedeste la gente in fila al rifugio della speranza con questo gelo terribile. Ma le guance così calde. Ciò dicendo, la signora March si era tolta il cappello, si era infilata le pantofole calde calde e, accomodatasi nella poltrona, si preparava a passare l'ora più piacevole della giornata. Le ragazze si avvicinarono al fuoco. Beth si mise ai piedi della mamma. Amy e Meg si appollaiarono sui due braccioli e Joe si appoggiò alla spalliera, nascondendo il viso perché non si potesse vedere la sua commozione. Cosa c'è nella mia tasca, signorina Amy? Signora March e famiglia! Papà! Mia adorata famiglia, io sono sano e salvo. Il nostro battaglione è accampato sul Potomac. Potomac. Potomac. Dicembre, per tutti noi così lontani da casa e dai nostri cari, è il mese più duro. Penso alle mie ragazze giorno e notte e trovo grande conforto nel vostro affetto. Prego perché le vostre difficoltà non siano troppo pesanti. Ad ognuna mando un bacio con tutto il mio cuore. Non faccio che pensarle di giorno e pregare per loro di notte. Oh, povero, povero papà. Io sono una bambina egoista. Oh, piccolina. È la vigilia di Natale. Papà non vorrebbe saperci tristi, no? Alle 9, come al solito, cantarono prima di andare a letto. Soltanto Beth era capace di suonare sul vecchio pianoforte. Aveva un tocco così dolce e leggero che era un piacere sentirla accompagnare le semplici canzoni che le altre cantavano. A letto, signorina. Buon Natale, amore mio. Buon Natale. Meg aveva una bella voce e dirigeva insieme alla mamma il piccolo coro. Amy cantava come un usignolo, ma Joe faceva sempre dei gorgheggi e delle variazioni a modo suo e riusciva quasi sempre a finire prima del tempo o a guastare con una stecca la più soave melodia. Buon Natale. Buon Natale, mami. Che tavola miracolosa. Sembra tutto come una volta, Anna. Sorrise Anna, che essendo vissuta nella famiglia March fin dalla nascita di Meg, era considerata più un'amica che una domestica. Oh, il burro non è una divinezza! Oddio, grazie per questa colazione! Joe, Angelo, va a prendere la mamma. È uscita stamattina all'alba per andare da certi tedeschi. Oh, me l'ha detto il ragazzo, non parlano altro che tedesco. Il padre è morto. 6 figli e sta per arrivarne un altro. Potreste anche portargli una fascina di legna da ardere, di sicuro non ne avranno, per non parlare poi della colazione. Forse potremmo mandare agli Umelli il nostro pane. Già che ci siamo, allora anche il burro. Non serve a molto se non c'è il pane per spalmarcelo. Le 4 ragazze rimasero per un istante perplesse. Avevano una gran fame quella mattina, perché avevano aspettato oltre un'ora per scendere a gustare la colazione di Natale. Ma l'indecisione non durò che un istante. In pochi minuti tutto fu pronto e la brigata si mosse. Fortunatamente era di buon mattino e le strade erano quasi deserte, perché molti si sarebbero meravigliati nel vedere quella strana processione. Here we come a-wustling among the leaves so green, and here we come a-wandering so fair to be seen. Era veramente una stamberga quella stanza ove albergava la misera famigliola. Le finestre rotte, il caminetto senza un'ombra di fuoco, le coperte del letto tutte lacere. In un angolo della stanza, un'infelice donna, inferma, teneva al petto un bambinello piangente. E dall'altro lato, un gruppo di poveri bambini stavano rannicchiati insieme sul letto, coperti da una misera coperta per ripararsi dal freddo. Come si spalancarono i loro occhi socchiusi e come sorrisero le povere labbra violacee all'apparire delle 4 ragazze. Ma quella colazione, benché non vi prendessero parte, portò anche alle sorelle March una grande soddisfazione. E quando partirono, lasciarono nella povera casa un po' di gioia ed allegria. Cavalieri e dame, elfi e paggi, monaci e giovinetti si intrecciavano allegramente nella danza. Pauline lanciò un grido inorridita quando la maschera dello sposo cadde. Troppo giovani ancora per andare al teatro e non avendo abbastanza soldi per potersi comprare le cose necessarie per una rappresentazione privata, le ragazze dovevano mettere alla prova la loro immaginazione. Ed essendo la necessità madre dell'invenzione, facevano da loro tutto quello che serviva. Alcune soluzioni erano proprio ingegnose. Facevano delle chitarre di cartapesta, delle lampade antiche con pezzi di stagno coperti da carta argentata, degli splendidi costumi scintillanti di lamina di zinco con vecchie vesti da camera di cotone, armature coperte di pezzetti di vetro che avrebbero dovuto essere diamanti. Gli uomini non erano ammessi, e perciò Joe faceva sempre con suo grande piacere la parte dell'uomo. Splendido episodio, signor Snodgrass. La sera di Natale una dozzina di ragazze si raggruppavano in soffitta su un vecchio letto che in quell'occasione fungeva da poltrone, palchi e posti distinti ed aspettava con grande impazienza che la tenda gialla e blu si alzasse. Che cosa ne pensiamo del giovane? Sarà un prigioniero come Smee Nicholas Nickleby? Sembra tanto solo. Non oserà farci visita. Forse ha un segreto. Un tragico segreto che ha portato dall'Europa. Spettegolavano, spirandolo dalla finestra, del loro giovane vicino, il signorino Theodor Lawrence, il nipote del vecchio e austero signor Lawrence che abitava nella ricca villa accanto alla loro vecchia casetta. Il giovane era da poco venuto a stare insieme al nonno, ma in giro non si vedeva quasi mai ed era perciò fonte di grande curiosità e speculazioni in tutta la città. Sento che questa sarà una serata meravigliosa. Meg, Joe, dovete raccontarmi squisitamente tutto di Bel Gardiner, come è il naso e come è l'anello. Annie Gardiner dice che è uno smeraldo. Vi rendete conto? Le fortune capitano tutti agli altri. Meno male che non devo andarci io in mezzo a tutta quella gente spaventosa e trovare qualcosa da dire. Oh, ma che dici, piccola mia? Senti, Joe, la sera di Capodanno il salottino fu lasciato deserto, perché le due sorelline minori facevano da cameriere e le due maggiori erano interamente assorte nei preparativi per il ballo. I vestiti erano già stesi sul letto e pronti per essere indossati. Ma vi fu un gran via vai, un ridere e un chiacchierio insolito e ad un certo punto un terribile odore di bruciato che si sparse in tutta la casa. Meg voleva farsi qualche ricciolino e Joe si era presa l'incarico di schiacciare col ferro caldo le striscioline di carta su cui erano avvolti i capelli. Cos'è questo strano odore? Come di piume bruciate. Hai rovinato i capelli! Mi dispiace! Non avresti dovuto farlo fare a me! Rovino sempre tutto! No, Meg, non preoccuparti, ricresceranno presto! Oh, non posso uscire conciata così! Meglio, nemmeno io ci voglio andare! Tieni, mettiamoci il mio fiocco davanti! Dopo molte difficoltà, Meg fu acconciata e gli sforzi riuniti dell'intera famiglia ridussero Joe in uno stato presentabile. Sì, così non si vede più! Ti dona molto, Meg! Non avrò mai dei corteggiatori. Le due sorelle stavano molto bene nei loro vestiti semplici. Meg nel suo color grigio perla con una fusciacca blu, la sua spilletta d'oro e le scarpette eleganti. Joe in marrone con un colletto duro da uomo e due o tre crisantemi nei capelli come solo ornamento. Sarai tanto felice, immagino. Oh, bella, incantevole. Ora andrai ad aiutare la mamma. Scusate. La padrona di casa, la signora Gardiner, una vecchia molto simpatica, ricevette Meg e Joe gentilmente e li affidò alle cure della maggiore delle sue sei ragazze. Meg conosceva già da un pezzo Sally Gardiner, perciò cominciò subito a parlare fitto con lei. Ma Joe, a cui non andavano a genio né le signorine né i loro discorsi leggeri, si ritirò vicino al muro, nascondendo la bruciatura sulla schiena del suo vestito e sentendosi terribilmente fuori posto. Meg trovò subito un ballerino e con le sue scarpette strette cominciò a volteggiare per la stanza in modo da non far sospettare a nessuno il dolore che le infliggevano. Joe vide da lontano un giovane dai capelli rossi che cercava di avvicinarsi al suo cantuccio e temendo volesse invitarla a ballare si nascose dietro a una tenda pesante. Ma un'altra persona, timida proprio come lei, aveva cercato quel rifugio e Joe si trovò faccia a faccia col ragazzo Lawrence. Sacripante! Oh, scusate! No, restate. Non è male come nascondiglio. Non conosco nessuno. Non mi va di star lì impalato a fissare la gente. Dovrei mettermi la giacca. Non conosco mai le regole. Ecco. Oh, io sono Lori. Theodore Lawrence, ma mi chiamano Lori. Joe March. Allora, chi stavate fissando? Voi, veramente. Che gioco stavate facendo prima? Non lo so, ma credo di aver vinto. E chi altro? Beh, ero piuttosto preso da quella ragazza. Ma è Meg. Oh. È mia sorella. Joe diventò rossa dal piacere nel sentire e ammirare sua sorella e si impresse bene nella memoria il complimento per ripeterlo a Meg. Tutte e due spiavano da un'apertura della tenda, criticavano e ciarlavano insieme e ben presto furono come vecchi amici. La timidezza di Lori sparì a poco e Joe ritornò a quella che era, allegra e chiacchierona come al solito. Il ragazzo Lawrence le piaceva assai e si prese il gusto di dargli due o tre buone guardate per poterlo descrivere alle sue sorelle. È vero che avete vissuto in Italia in mezzo agli artisti e ai giramondo? Oh, beh, mia madre era italiana, faceva la pianista. Il nonno non la vedeva di buon occhio. Sul serio? Vi piace il teatro? Oh, sì. Ci siete nato? Dove? In Italia? Parlate francese o italiano? A casa, no. Francais à l'école. Il conservatorio di musica a Vevey. Ma il nonno mi ha preso un istitutore adesso. Lui vuole che io vada al college. Oh, io ucciderei pur di andare al college. Io andrò in Europa. Beh, spero di andarci perché la mia prozia March ci andrà prima o poi e deve portarmi perché io sono la sua dama di compagnia. La stanza era vuota, perciò incominciarono a ballare e Joe si divertì moltissimo perché Lori non solo ballava bene, ma le insegnò anche il passo tedesco, un ballo pieno di brio e di slancio molto adatto alla natura irrequieta di Joe. Cessata la musica, uscirono in corridoio per riprendere fiato e trovarono Meg distesa sopra un sofà, pallida, che si teneva un piede con una mano. Ah, oh, Joe, mi sono slogata una caviglia. Lo credo, con queste scarpe. Vi fa male? No, no, no, sto benissimo, grazie. Lui è il nostro vicino, Lori, il prigioniero. Povera Meg, ha avverto la signora Gardiner? No, Joe, penserà che abbia pasticciato quei liquori. Una festa assolutamente perfetta rovinata così. Ho la mia carrozza, permettetemi di accompagnarvi. Oh, sì! No, venire. Quando il signor March aveva perso tutte le sostanze nel cercare di salvare dalla rovina un suo amico, Joe e Meg avevano chiesto ai genitori di permettere loro di fare qualcosa, se non per aiutare la famiglia, almeno per mantenere loro stesse. Questi avevano acconsentito e le ragazze si erano messe al lavoro con ardore. Meg aveva trovato un posto come istitutrice in una famiglia e lo scarso salario le parve una fortuna. Ma nonostante ciò, sopportava meno bene delle sorelle la povertà. Amava le cose belle e si ricordava i tempi in cui la casa era un paradiso, la vita facile ed agiata e il bisogno sconosciuto. E quindi il suo più gran dolore era che la famiglia fosse ridotta allo strettissimo necessario. Joe, invece, aveva colpito per caso la fantasia della zia March, una vecchietta ricca, zoppa e brontolona, che aveva bisogno di una persona attiva che le stesse intorno e le facesse da dama di compagnia. Questo non andava bene affatto a Joe, la quale, non avendo però altro lavoro, aveva accettato e con gran meraviglia di tutti riusciva anche ad andare d'accordo con l'irascibile zia. È da credere però che la vera calamita che attirava Joe in casa della zia March fosse una grande libreria, rimasta in preda alla polvere e ai ragni fin dal tempo in cui il vecchio zio March era morto. Le statue che la guardavano dalle loro nicchie, le comode poltrone e più di tutto la ricca messe di libri sparsi qua e là, ove poter attingere a suo agio, facevano sì che quella stanza vecchia e polverosa fosse per lei un vero paradiso terrestre. Joe ambiva a far qualcosa di splendido. Che cosa fosse poi questo qualcosa non lo sapeva ancora neppure lei e aspettava che il tempo glielo suggerisse. Ma intanto la sua più grande afflizione era di non poter leggere, correre e montare a cavallo quanto avrebbe voluto. Beth era troppo timida per andare a scuola. L'avevano mandata una volta per prova, ma la povera piccina aveva sofferto così tanto che dovettero abbandonare l'idea e suo padre aveva finito col darle lezioni. Anche quando il signor March era partito e la madre era troppo occupata nella società militare di soccorso per poterle dar lezioni, aveva continuato da sé, cercando di fare il meglio possibile. Beth era una piccola massaia. Aiutava Anna nelle faccende domestiche, cercando di rendere comoda e ordinata la casa per la mamma e le sorelle, e non aspettandosi altra ricompensa che quella d'essere amata. Oh, Beth, sinceramente, io non so se riuscirei mai ad essere buona come mami. Sono più una che si crogiola nella violenza. Se soltanto potessi essere come papà e andare in guerra e sfidare i paladini dell'ingiustizia. In fondo è quello che fa anche Mami, a modo suo. Sì, ma io voglio fare qualche cosa di diverso. Non so ancora che cosa sia, ma so che sono alla ricerca. Lo troverai, John. Se qualcuno avesse domandato ad Amy quale fosse il più grande tormento della sua vita, lei avrebbe certamente risposto: il mio naso. Quando era bambina, Joe l'aveva fatta cadere accidentalmente in un braciere, per fortuna spento, ed Amy insisteva nel dire che quella caduta le aveva per sempre rovinato il naso. Non era lungo e rosso come quello della bambola petrea, ma era un po' schiacciato e nonostante i continui pizzicotti a cui Amy lo assoggettava, non riusciva ad avere una punta aristocratica. Nessuno ci faceva caso, ma Amy sentiva molto la mancanza di un naso greco e ne disegnava degli interi volumi per consolarsi. La piccola Raffaello, come la chiamavano le sorelle, aveva molto talento per la pittura e la sua più grande felicità consisteva nel copiare fiori, disegnare fate o illustrare racconti. I suoi maestri si lagnavano di lei perché invece di fare le sue operazioni riempiva la lavagna di animali. Le pagine bianche del suo Atlante erano tutte ricoperte di carte geografiche e caricature ridicole scappavano fuori dai suoi libri e apparivano sempre nei momenti meno opportuni. E là! Joe! Perché non vieni da noi? Anche tu, Meg! È una noia tombale qui! Signor Lawrence, non si urla alle signore come si fa col bestiame. Soltanto il giardino separava la casa dei March da quella dei Lawrence. Tutte e due erano situate nei sobborghi della città, in mezzo a prati, a giardini e a strade molto quiete e tranquille. Una folta siepe era il solo confine tra le due proprietà. Da una parte si vedeva una vecchia casetta grigia, spogliata ora dei rami di vite e dei fiori che la coprivano d'estate. Dall'altra si innalzava un grandioso edificio di pietra, che denotava in tutti i suoi dettagli il lusso e l'agiatezza dei proprietari, dalla bella scuderia ai giardini ben tenuti, dalle serre riscaldate ai bei mobili che si scorgevano attraverso le ricche cortine. Questa casa era, secondo la vivace fantasia di Joe, una specie di palazzo incantato, pieno di splendore e di ricchezze, di cui nessuno godeva quanto avrebbe potuto. Ed essa moriva, da molto tempo, dalla voglia di vedere questo paradiso terrestre e diventare amica del giovane Lawrence. Ah! Ma come Joe, potuto avrei mai immaginato? Colleghi artisti, permettetemi di presentarmi umilmente. Quale attore, musicista e fedele e devotissimo servitore del circo. Questo lo giudicheremo noi. Come segno della mia gratitudine e come mezzo per promuovere le relazioni tra nazioni comunicanti, non potendo urlare dalle finestre, io mi impegno a istituire un ufficio postale nella nostra siepe. Per incoraggiare ulteriormente la messa a nudo delle nostre anime e l'espressione dei nostri più agghiaccianti segreti. Io vi prometto che mai rivelerò ciò che mi viene confidato qui. Bene, allora prendi il tuo posto, Roderigo. Messer Roderigo. Con l'innocente entusiasmo della gioventù, le quattro ragazze accolsero Lori tra di loro e lo misero a parte di tutto ciò che avevano e facevano, mentre egli faceva di tutto per rendersi utile e piacevole. Non aveva mai conosciuto né madre né sorelle, e presto sentì l'influenza che esercitavano su di lui le ragazze, e la loro vita attiva ed animata lo fece arrossire pensando alla vita che egli fino ad allora aveva condotto. Era stanco dei libri e trovò la nuova compagnia così interessante che il suo giovane istitutore, il signor John Brooke, dovette dare al vecchio Lawrence dei rapporti molto sfavorevoli sul conto degli studi del nipote, giacché non faceva altro che inventare nuovi giochi e fare delle scappate dai March. Come si divertivano tutti insieme! Che bei giochi che facevano! Che corse nelle slitte sul ghiaccio! Che belle serate passavano nella vecchia soffitta e qualche volta nel gran palazzo! Le vostre ragazze sono insolitamente esuberanti, signora March, se posso permettermi. Un sabato, dopo pranzo, Amy entrò nella stanza di Meg e Joe e vide che, con grande segretezza, si preparavano ad uscire. Anch'io voglio andare a teatro stasera, non mi portano mai da nessuna parte. Sei troppo piccola, Beth, dove accidenti è finito il binocolo di mamma? Non sono troppo piccola, sei tu che ti sei accaparrata Lori. Ti prego, posso venire? Ah, Amy, ho paura che Lori abbia preso solo 4 biglietti, ti sembro in ordine? Sacripante, Meg, non è un'incoronazione, sono solo Lori e quell'orribile signor Brooke. Joe, non puoi chiedere a Teddy di trovare un altro biglietto? No. Hai il raffreddore, cara, riposati gli occhi. Sei indietro di settimane in algebra. Voglio che tu faccia tutte le pagine che ho segnato. Non voglio avere una sorella pigra e ignorante. E non fare il broncio, sembri un cane bastonato. Oh, oh. Buonanotte. Te ne pentirai amaramente, Joe March. Si divertirono immensamente perché la commedia non poteva avere un esito migliore. Ma il divertimento di Joe non era completo. I capelli biondi della regina delle fate le ricordavano Amy e negli intermezzi si lambiccava il cervello domandandosi che cosa avrebbe fatto la sorella per farla pentire. Quando Meg e Joe tornarono a casa, trovarono Amy che leggeva tranquillamente nel salotto. Appena le vide, assunse un'aria di offesa e non alzò gli occhi dal libro. Ma quando salì in camera sua, Joe fece una scoperta che provocò una vera esplosione. La sua raccolta di racconti, alla quale aveva duramente lavorato per anni, si consumava lentamente, crepitando nel camino. No! No! No! Meg, Beth e Amy se ne stavano sedute nel salottino quando Joe spalancò con gran furia la porta ed entrò come una bomba nella stanza. Come hai potuto farmi questo? Joe! Joe, basta! Mi fai male! Joe, lasciami stare! Che è successo? Ma basta, smettila, lasciala stare! Tu sei morta! Non esisti! Non voglio vederti mai più! La mamma fece di tutto per cercare di riportare un po' di pace, ma ciò nonostante, quella sera non passò come le altre. È una gravissima perdita e tu hai tutto il diritto di essere sconvolta. Ma fa che il sole non tramonti sulla tua collera. Perdonatevi l'un l'altra. Domani ricominci da capo. Non la perdonerò mai. Mi dispiace, Joe. La faccia di Joe continuò a minacciare tempesta e il giorno dopo andò tutto alla rovescia. Sembravano tutti così antipatici, di cattivo umore, che Joe volle andare con Lori a pattinare. Hai osato sfidarmi? Oggi sono in forma. Sei fortunato. Io dico che è l'ultima ghiacciata per quest'anno. Dai via. Lori, no, aspettatemi! Pronti? Via! Il fiume non era lontano, ma ambedue erano già pronti quando arrivò Amy. Joe la vide e apposta le voltò le spalle. Udiva dietro di sé Amy che respirava forte, che si soffiava sulle dita e batteva i piedi, mentre si legava i pattini. Ma non si volse e continuò a pattinare, quasi rallegrandosi delle difficoltà che la sorella incontrava. Amy! Aiuto! Resisti! Resisti, Amy! Prendi un bastone! Aggrappati al bastone, Amy! Aggrappati! Per alcuni istanti lavorò come una persona in sogno, obbedendo ciecamente agli ordini di Lori, che perfettamente padrone di sé teneva Amy per le braccia con la testa al di sopra dell'acqua. Joe riuscì finalmente a trascinare uno dei legni della palizzata che era lì vicino e assieme a Lori, prendendo ciascuno Amy per un braccio, la tirarono fuori dall'acqua e la portarono a casa, più impaurita che altro. Josephine March, sei tornata dal laghetto Walden con indosso solo questi mutandoni? Come se lei ci facesse caso. Mia dolce, come ho potuto essere così detestabile? Grazie a Dio c'era Lori. Joe, tu ami Lori più di quanto ami me. Ma perché fai sempre il pagliaccio? Io non potrei mai amare nessuno più di quanto amo le mie sorelle. Non sono un pagliaccio. Il giorno dopo, con un bellissimo sole che annunciava la fine dell'inverno, Meg partì per andare a divertirsi una quindicina di giorni a casa dei signori Moffat. La signora March aveva consentito a questa visita perché un po' di divertimento le pareva una ricompensa davvero meritata, dopo il grande lavoro invernale. I Moffat erano gente molto alla moda e la semplice Meg si trovò un po' spaesata in quella casa splendida e fra tutte quelle ragazze ricche ed eleganti. Ma nonostante la vita frivola che conducevano, i Moffat erano gente per bene e Meg si adeguò presto all'ambiente nuovo. Quando finalmente venne la sera del balletto, Meg si accorse che non poteva mettere il suo vestito chiaro, perché le altre ragazze si mettevano dei vestiti molto più leggeri del suo. Perciò tirò fuori il suo vecchio abito leggero, che al confronto di quello fresco e vaporoso di Sally le parve più brutto e più misero che mai. Posso dirti una cosa? Questo è un abito da pomeriggio. Farò di te la mia protetta. Hortense, oui, mademoiselle, viens ici. Stasera la signorina March farà le conquiste che desidera. Non portate il corsetto? Anna Moffat si chiuse in camera con la cameriera e fra tutte e due trasformarono Meg in una gran signora. Le arricciarono e incresparono i capelli, le misero sulle braccia e sul collo della cipria, le truccarono le labbra con un po' di rossetto per farle più rosse. La vestirono di un abito di seta celeste così stretto che poteva respirare appena e così scollato da farla arrossire quando si vide riflessa nello specchio. Una collana, dei braccialetti e anche degli orecchini, un ventaglio di piume e un mazzo di fiori in mano soddisfecero i più intimi desideri del suo cuore. Oh, e Charlie? Non per me, grazie. Peccato. Io credo che il prossimo ballo sia una polca. Con me? Beh, io ballerei con voi, signor Parker. Ma temo per le mie nuove scarpette. Il mio motto è mai lasciarsi calpestare. Meg, quella sera, recitò la parte della gran signora e se la cavò abbastanza bene, sebbene il vestito la stringesse troppo, lo strascico le desse molta noia e gli orecchini la tenessero in continua agitazione. Stava facendosi vento e sorrideva agli scherzi di un giovane che cercava di fare lo spiritoso, quando ad un tratto smise di ridere e arrossì vivamente, perché proprio in faccia a lei vide Lori. Signorina March, credevo che in famiglia foste in prevalenza a Stanley. Lori? Rossa e indignata, Meg si avvicinò a una finestra, appoggiò la fronte sul vetro e si nascose dietro una delle tende, non accorgendosi neppure che il suo ballo favorito era cominciato. Poi si sentì toccare un braccio e vide Lori, che con la faccia contrita e il suo migliore inchino le tendeva la mano. Meg, mi dispiace. Ti prego, non dire a Joe come mi sono comportata. No, certo. Se tu non dirai come mi sono comportato io. Stavo solo recitando una parte, per vedere che effetto fa essere Bel Gardiner con quattro pretendenti e 20 paia di guanti. Vali 10 di quelle ragazze. Avete visto come la piccola March corre dietro alle rede dei Lawrence? Sarebbe una vera fortuna per i March. Oh, questo vestito ridicolo è così lungo, è tutta la sera che lo calpesto. Puoi legartene un po' intorno al collo, lì potrebbe esserti utile. Per il troppo champagne bevuto, Meg si sentì male tutto il giorno seguente e finalmente il sabato se ne tornò a casa, stanca di divertimenti e sentendo che per il momento ne aveva avuto abbastanza di vita frivola e di società. Alcuni giorni dopo, Joe andò a far visita a Lori, che si preparava a partire per l'università. Era dispiaciuta perché sapeva che per un po' non avrebbe avuto vicino il suo compagno di avventure e in segreto moriva dalla voglia di poter accedere anche lei all'istruzione di cui poteva beneficiare Lori. Tornerai che avrai imparato tante cose che io non so e allora ti odierò. Oh, beh, si dà il caso che io già sappia qualcosa che tu non sai. Riguarda Meg e un certo mio ex istitutore che presto sarà impiegato nello studio Lawrence e Lawrence. Bugiardo. Allora, Meg ha smarrito un oggetto personale di recente, diciamo un guanto. Guarda che il tuo guanto lo ha rubato John Brooke. Quale guanto? Non sarà quello bianco? L'ha sempre avuto Brooke. Lori mi ha detto che lo tiene in tasca. Devi fartelo ridare. Anna, non pensi che debba farselo ridare? Non è quello che penso io che importa. Per una settimana o due, Joe si comportò in modo talmente strano che le sorelle ne furono meravigliate. Correva alla porta ogni volta che veniva al postino. Trattava male il signor Brooke quando lo vedeva e stava per dei quarti d'ora interi a guardare Meg con una faccia da martire e correva ad un tratto a baciarla in modo misterioso. Joe, Meg! È un telegramma dall'ospedale di Washington. Vostro padre è stato ferito. All'udire la notizia, sembrò che la luce si oscurasse al di fuori, che il mondo intero cambiasse da un momento all'altro. E mentre si raccoglievano intorno alla madre, che la felicità e il sostegno della loro vita dovesse essere tolto per sempre. La signora March si riebbe però subito, per fortuna. Rilesse il telegramma una seconda volta e cominciò a organizzare una partenza immediata. Va bene, mi basta così. Qui ci sono 6 candele. Ciò che abbiamo è sul registro. Dovrebbe bastarvi fino a fine mese. Certo, non preoccuparti per me. Ah, aspetta. Cara, pensa ai poveri Hummel, per favore. Sì, ma... Dov'è Joe? Sono quasi le 6. Sta combattendo con la zia March per il biglietto del treno. Amy, ti dispiace portare una lettera alla signora Juba al rifugio della speranza? John! Signor Brooke. Sono venuto a offrirmi di scortare vostra madre. Tutto era già quasi in ordine. Le commissioni erano state fatte, Meg e la madre erano intente ad un lavoro che dovevano finire, Beth ed Amy preparavano il tè. Anna finiva di stirare la biancheria, ma Joe non tornava a casa. Visto che il giovane Lawrence non ha più bisogno di me e al signor Lawrence servono delle commissioni a Washington, vorrei potervi essere d'aiuto laggiù. Non vogliamo che viaggiate da soli. Signor Brooke, come siete gentile. Posso? Grazie. Prenderemo il treno delle 6. Sì, ho mandato Joe dalla zia, non è ancora... Eccomi. Ah, Joe, finalmente. 25. La zia ti ha dato tutti questi soldi. Non ce l'ho fatta a chiedergli. Ho venduto i miei capelli. Così dicendo, Joe si levò il cappello e un grido generale si innalzò nella piccola camera. I suoi magnifici capelli erano stati tutti tagliati. No. Joe, che hai fatto? Joe, come hai potuto? Erano il tuo orgoglio. Beh, non perderemo la guerra per questo, no? Mentre tutti facevano queste esclamazioni e Beth abbracciava teneramente la povera testa rasata, Joe assunse un'espressione di indifferenza che non ingannò però nessuno e si passava una mano sulla testa e cercava di mostrarsi contenta di ciò che aveva fatto. Quella notte, dopo che la mamma era partita, scortata dal signor Brooke, Joe stava immobile nel letto, tanto che sua sorella credeva che dormisse, quando ad un tratto un singhiozzo soffocato le fece esclamare mentre toccava una guancia bagnata di lacrime. Ai miei capelli! Nelle settimane successive, le notizie che arrivavano da Washington consolarono le ragazze, poiché, sebbene fosse ancora ammalato molto seriamente, la presenza della persona che amava tanto aveva già portato giovamento alla salute del babbo. Il signor Brooke mandava ogni giorno un bollettino e, come capofamiglia, Meg insisteva nel voler leggere le notizie che si facevano di giorno in giorno migliori. I soldi scarseggiavano, ma si faceva di necessità virtù. E con un po' di risparmio e l'aiuto dei Lawrence e della zia March, le piccole donne continuavano anche ad aiutare i più poveri, come gli Hummel, per i quali la mamma si era tanto raccomandata prima di partire. Tutti i giorni Beth metteva il mantello e il cappello, riempiva il suo panierino di piccole cose per quei bambini poveri e usciva nel freddo. Era già tardi quel pomeriggio, quando Beth tornò a casa, e nessuno la vide salire adagio le scale e rinchiudersi in camera. Beth! Il piccolo degli Hummel è malato. Io mi sento tanto strana, Joe. Scotta per la febbre, ma dice di sentirsi gelata. Ha una sete terribile, ma non vuole bere. Forse è l'arsenico, ma a vederla proverei con la bella donna. Ho visto gli Hummel. Due figli se li ha presi il signore. Avevano la scarlattina. Voi e Joe non correte rischi. L'avete avuta da bambine. Ma la piccola Amy, dovremo mandarla via. Si decise che Amy fosse subito mandata via. Dovette prendere una medicina per premunirsi dal pericolo e partì in carrozza accompagnata da Lori. È vero, Lori. Dio non la lascerebbe morire. Oh, io non voglio andarmene. Verrò a trovarti tutti i giorni. Te lo giuro. Non sarai sola. Io ho paura della zia March. Se non ti tratterà bene, verrò lì e ti porterò via. E dove andremo? Parigi? Beth si ammalò molto più gravemente di quanto si aspettassero. Le ragazze non si intendevano affatto di malattie. Anna faceva del suo meglio, ma vennero giorni in cui, quando saliva la febbre, Beth prese a dire cose senza senso, suonando sulle coperte del letto come sul suo pianoforte e cercando di cantare con la gola così gonfia che le note uscivano come piccoli gridi. Durante quei deliri non riconosceva più i volti familiari che le stavano a lato, ma chiamava le sorelle con nomi sbagliati e implorava che facessero venire la mamma. Joe, c'è il signor Lawrence. Se permettete, vorrei che il mio medico personale, il dottor Banks, visitasse la bambina. Non si può fare niente. Se le praticassi un salasso, la ucciderei. Meglio mandare a chiamare la madre. Perdonate. L'ho già fatto. La signora March arriverà col treno questa sera. La notizia entrò nella stanza come un soffio d'aria pura e sembrò quasi restituire i colori alle cose e alle persone. Tutto pareva annunciare un cambiamento favorevole. Il canarino di Beth cominciò di nuovo a gorgheggiare. Una rosa sbocciò sulla pianta di Amy. Il fuoco sembrava bruciasse con uno scoppiettio più allegro del solito ed ogni volta che le ragazze si incontravano, si abbracciavano come per incoraggiamento. Venne finalmente la notte ed ogni volta che l'orologio suonava le ore, le sorelle sedute da una parte e dall'altra del letto si scambiavano uno sguardo di incoraggiamento, come per dire che l'arrivo della mamma si avvicinava sempre di più. Joe! Piccolina, la mamma è qui. È gelata. Joe! Prendi una bacinella con dell'aceto e dell'acqua e un po' di stracci. Meg, la valigetta. Devo farle scendere la febbre dalla testa. Va tutto bene. Sta tranquilla. Va tutto bene ora. Il mio tesoro. Venne di nuovo il dottore e disse che una crisi sarebbe avvenuta probabilmente verso mezzanotte e che a quell'ora egli sarebbe tornato. Le ragazze non dimenticarono mai più quella notte in cui sedevano vicino al letto di Beth, insieme alla mamma e ad Anna, vegliando la sorella, turbate da quell'orribile senso di impotenza che aggredisce la mente in quei momenti terribili. Il mattino dopo sembrò che un gran cambiamento si fosse prodotto in Beth. Il rossore della febbre e l'espressione di sofferenza erano scomparsi. Il viso era pallido, ma disteso. La febbre era passata. E Beth finalmente dormiva tranquilla. Beth! Le settimane che seguirono fluirono come i raggi del sole dopo la tempesta. Beth migliorava rapidamente. Il signor Brooke cominciò a scrivere nelle sue lettere quotidiane da Washington che il signor March sarebbe potuto tornare a casa per l'anno nuovo e Beth poté presto sdraiarsi sul sofà nello studio, divertendosi prima coi suoi amati gattini e riprendendo poi gli esercizi al pianoforte. Il Natale si avvicinava e i soliti misteri sui regali cominciarono a circolare per la casa. Joe spesso faceva andare in convulsioni di riso la famiglia col proporre cose inaudite grandi cerimonie in onore del Natale, che doveva essere quell'anno più allegro e felice. Anche Lori faceva proposte assurde: fuochi artificiali, archi di trionfo di fiori da mettere in giardino. Ma dopo mille discussioni, l'ambiziosa coppia di amici doveva ritirarsi in buon ordine e i due delusi se ne andavano col muso. Il tempo fu per alcuni giorni mite e bello, e la giornata di Natale prometteva di essere splendida. Anna disse che se lo sentiva proprio nelle ossa, che quel giorno doveva essere una giornata grandiosa, e fu in questo davvero profetica. Lori aprì la porta dell'anticamera e mise dentro solo la testa. Ma avrebbe anche potuto fare una capriola o lanciare un grido di guerra indiano, perché il viso era così eccitato e la voce così gioiosa mentre diceva quasi senza fiato: «Ecco un nuovo regalo per la famiglia March!» che tutti saltarono su d'un balzo. Sparì prima di aver finito la frase e al suo posto comparve sulla soglia un uomo alto, imbacuccato fino agli occhi, che cercò di pronunciare qualche parola senza riuscirci. Papà! Buon Natale a tutti! Oh, che stupendo regalo! Papà! Oh, sei a casa! Meg! Sei più Meg, tesoro. Prendi il cappotto di tuo padre. Grazie a Dio, stai bene. Fatelo passare, lasciatelo respirare. Ciao! La mia ragazzina selvaggia. Beh, potrebbe diventare una moglie. State. Non sono abituato a tutto questo. Ho fatto il soldato per troppo tempo. Il signor March raccontò che da tempo coltivava l'idea di questa improvvisata ed era riuscito nel suo intento perché il dottore, vista la bellissima stagione, gli aveva dato il permesso di partire. Poi cominciò a parlare del signor Brooke e raccontò quanto fosse stato buono ed amorevole con lui. E finì col dire che John Brooke era un giovane buonissimo e degno della massima stima. Il signor March a questo punto fece una piccola pausa e dopo aver dato uno sguardo a Meg, che soffiava violentemente sul fuoco, si volse a sua moglie con un'alzata di sopracciglia. Jo vide e capì quello sguardo ed uscì dalla stanza brontolando tra i denti. Più tardi entrò per prendere del vino in cucina, dove la mamma e Meg stavano finendo di decorare una torta da portare in tavola. Ho paura che sarebbe un fidanzamento lungo, 3 o 4 anni. John deve trovare una casa prima di sposarsi e prestare servizio nell'esercito. John, sposarsi? Vuoi dire quell'impiastro del signor Brooke? Come è riuscito a intrufolarsi in questa famiglia? John è stato gentile, è andato da papà in ospedale tutti i giorni. Sì, ma è più noioso di un callo. Meg, non puoi sposare uno che sia almeno un po' divertente? Io voglio bene al signor Brooke, è un bravo uomo, è gentile, è serio e io non ho paura di essere povera. Oh, mami, ma non puoi lasciarglielo sposare così su due piedi? Io non sposerei nessuno così su due piedi. Preferisco che Meg si sposi per amore con un uomo povero piuttosto che si sposi per denaro e perde il rispetto di sé. Allora non ti dispiace se John è povero? No, ma preferirei che avesse almeno una casa. Oh, ma perché poi ci dobbiamo sposare? Perché le cose non possono restare come sono? È solo una proposta di matrimonio, non c'è bisogno di decidere niente, ragazze. Non roviniamo questa giornata. Il signor Lawrence e suo nipote pranzarono con loro, e così pure il signor Brooke, a cui Jo lanciava occhiate torve, con gran divertimento di Lori. E seduta al suo piano, Beth toccò leggermente i tasti, e con quella voce soave che tutti avevano temuto di perdere, intonò il canto di Natale. Le cose cambieranno, come certo che cambiano le stagioni, e anche più in fretta. Noi faremo del nostro meglio per accettarle. O, come disse Amy quando era ancora bambina, un giorno cresceremo tutte. Tanto vale sapere quello che vogliamo. 4 anni trascorsero da quel felice Natale. 4 anni di fidanzamento per Meg e il signor John Brooke, che preparavano gli sposi e la famiglia March al giorno del matrimonio. La cerimonia, secondo i desideri degli sposi, non avrebbe avuto niente di speciale. Tutto doveva svolgersi nel modo più semplice e familiare possibile. Non ci fu un corteo nuziale, ma un silenzio solenne nella sala quando il signor March e la giovane coppia presero posto sotto l'arcata verdeggiante. La madre e le sorelle si strinsero l'una all'altra, mentre la voce del celebrante fu scossa più volte da un tremito che conferì alla cerimonia una bellezza e una solennità inattese. In quegli anni Lori si era dedicato seriamente agli studi, ottenendo di conseguenza la laurea a pieni voti. Ad applaudirlo c'erano in marcia al completo, oltre al nonno, e tutti si congratularono con lui con gran calore, orgogliosi e soddisfatti di tanto successo. Quel pomeriggio, dopo la laurea, Joe e Lori cominciarono a chiacchierare di cose futili, finché non lasciarono la strada per inoltrarsi in un sentiero che tagliava attraverso un boschetto. Ave, trionfatore laureato! Il nonno è infinitamente orgoglioso? Sì, è infinitamente deciso a rinchiudermi in uno dei suoi uffici, perché mi può dipingere le porcellane. E tu puoi scrivere quanto vuoi, mentre io devo virilmente rinunciare alla mia musica. Perché devi farlo? Perché altrimenti dovrei sfidare il nonno. Sì, e non la società intera. Non posso andare contro il vecchio. Quando cerco di immaginarmi quella vita, c'è soltanto una cosa che potrebbe farmi felice. A quel punto Lori rallentò il passo, prese per mano Joe e la baciò. No, aspetta, Teddy. Noi dobbiamo parlarne da persone ragionevoli. Io ti ho amata, Joe. Dal primo momento che ho posato i miei occhi su di te, cosa può esserci di più ragionevole che sposarti? Cara Joe, ti giuro che sarò sempre un santo. Mi prenderò cura di te e della tua famiglia. Potrai concederti quei lussi che ti sono sempre stati negati. Non dovrai scrivere, a meno che tu non lo desideri. Il nonno vuole che vada a imparare la professione in Inghilterra. Ti immagini noi due a spasso per le strade di Londra? Oh, Londra. Teddy, non sono abbastanza sofisticata per Londra. Ti ci vuole una persona elegante, raffinata. Io voglio te. Teddy, ti prego, no, non chiedermelo. La voce del giovane si spense in un singhiozzo che proprio non poteva evitare. Finse di schiarirsi la gola e con il bastoncino che teneva in mano si mise a decapitare nervosamente i fiori del prato. Teddy, mi dispiace da morire. Io ti voglio tanto bene, davvero. Con tutto il mio cuore, tu sei il mio amico più caro. È che non potrei mai fare la moglie. Tu dici così adesso, ma lo farai. No, io no, io no. Un giorno incontrerai un uomo, un bravo uomo, e lo amerai profondissimamente. E tu vivrai e morirai per lui. Teddy, ti prego. È così. Ci fu una lunga pausa di silenzio, rotta solo dal canto armonioso di un merlo vicino alla riva del fiume e dal fruscio del vento tra l'erba. Quelle parole ebbero l'effetto del fuoco su una miccia. Lori girò sui tacchi e poi disse con voce vibrante di rabbia e di disperazione: Joe, io ti conosco. E preferisco morire piuttosto che star lì a guardare. Joe lo guardò allontanarsi, riprese fiato e proseguì verso casa, sentendosi come se avesse ucciso qualcosa di puro e l'avesse seppellito sotto le foglie. Il tempo trascorse veloce e le sorelle portarono avanti le loro passioni con amore. Di tanto in tanto, a intervalli di 2 o 3 settimane, Joe si chiudeva nella sua stanza, indossava la sua tenuta da scrittrice e si tuffava nel vortice, come amava dire. Il che significava dedicarsi corpo e anima al suo romanzo, buttando giù una pagina dopo l'altra. Non avrebbe avuto pace finché non fosse finito. Non che Joe credesse di essere un genio, tutt'altro. Ma quando arrivava l'ispirazione, si lasciava trasportare felice, insensibile alla fame, alle preoccupazioni, al cattivo tempo, immersa in un mondo immaginario e meraviglioso dove si sentiva protetta e sicura. Un mondo pieno di amici inventati che le erano cari quanto quelli in carne ed ossa. Non toccava cibo, non sentiva il bisogno di dormire e le 24 ore di una giornata non le bastavano per gustare fino in fondo la felicità che in quei momenti le veniva concessa. Questo stato di grazia durava di regola 1 settimana o 2. Poi Joe riemergeva dal vortice affamata, assonnata, stanca e intrattabile. Quella sera Jo non riusciva ad addormentarsi. Pensava alla scrittura e al suo futuro. Durante la notte prese una decisione e dopo averci riflettuto per qualche giorno si confidò con la madre. Mi dispiace, mami. C'è proprio qualche cosa di sbagliato in me. Io voglio cambiare, ma non ce la faccio. Io lo so che non troverò mai un posto per me. Oh, Jo, tu sei talmente piena di qualità straordinarie. Ma come puoi aspettarti di vivere una vita normale? Sei pronta ad andare per il mondo e a mettere a frutto il tuo talento. Anche se non so che cosa farò senza la mia Jo. Va, corri incontro alla libertà e scopri quali cose meravigliose ha in serbo per te. Jo non vedeva l'ora di partire, quasi che la casa dove era nata fosse diventata troppo stretta per il suo spirito avventuroso e la sua natura irrequieta. Quando tutto fu pronto, si fece coraggio e con la voce che le tremava un po', informò Lori della partenza imminente. La mamma mi aiutò a trovare un posto nella grande città di New York e così varcai il confine che separa l'infanzia da tutto ciò che viene dopo. Al suo arrivo a New York venne ricevuta dalla signora Kirk con molta cordialità e si sentì subito come a casa sua, anche in quella grande pensione frequentata da tanta gente che non conosceva. Jo conobbe il professor Bear, una persona colta, buona, che veniva da Berlino. Era povero in canna e dava lezioni private per mantenere se stesso e due nipotini che faceva studiare a New York per desiderio di sua sorella. Dal vetro della porta della sua stanza, Jo poteva osservare tutto il movimento che c'era nella pensione e in particolare le faccende del professor Bear. Era il classico tedesco, gli occhi più dolci che avesse mai visto e una voce straordinaria, calda, sonora, che a Jo sembrò molto diversa da quelle americane, spesso nasali e stridenti. Aveva le mani grandi e nessun segno particolare in viso, a parte un magnifico sorriso. Si accorse all'improvviso che era proprio un bell'uomo e che, nonostante l'abbigliamento fosse un po' spiegazzato e le giacche avessero sempre almeno un bottone in meno, aveva l'aria di un vero gentiluomo. Il professore e Jo divennero presto buoni amici e lei iniziò a prendere lezioni di tedesco. Per la verità non ne aveva davvero l'intenzione, ma tutto era avvenuto in modo tale che non poteva farne a meno. Sapete, appena vi ho vista, ho pensato subito, ah, è una scrittrice. E da che cosa l'avete capito? Io conosco molti scrittori. A Berlino ero professore all'università. Qui sono solo un umile istitutore, temo. Siete lontana da casa, signorina March? Vi manca la famiglia? Oh, moltissimo. Le mie sorelle, soprattutto. E Lori? È vostra sorella? No, è un amico. Beh, avete una bellissima biblioteca. Ho venduto tutto quello che avevo per pagarmi il viaggio per venire fino a qui, ma i miei libri, mai. Credete che ritornerete a Berlino, professor Bea? Friedrich. Chiamatemi Friedrich. Friedrich. No, purtroppo la patria di Goethe e di Schiller non è più la stessa. Oh, io adoro Goethe. È povero, come ci si immagina che sia un aspirante filosofo itinerante. Eppure, col passare delle settimane, mi accorgo di quanto sia immancabilmente generoso con tutti noi della casa. Sono felice di avere un amico. Jo cominciò a scrivere storie sensazionali. Si tuffò nelle onde tempestose della letteratura e, come la maggior parte degli scrittori esordienti, andò a cercare all'estero gli ambienti e i personaggi dei suoi racconti fantastici. Banditi, nobili, zingari, monache, duchesse, maneggiava il tutto con notevole disinvoltura. E lei aveva fantasia a sufficienza per scrivere di getto un racconto dopo l'altro. Ho delle buone notizie. In un giornale mi hanno pubblicato due racconti e me ne hanno chiesti degli altri. Beh, è meraviglioso. Guardate. Il cadavere del peccatore di Joseph March. Lunatici, vampiri, questo vi interessa? Beh, piacciono alla gente queste storie avvincenti, Friedrich. È questo che vogliono i quotidiani. Suppongo che sia vero. potrò comprare un cappotto a Bette e sono sicura che ne sarà molto felice. Joe, io non voglio insegnarvi niente. No, cercate di capire. Dovete fare ciò che più vi piace e vi soddisfa. La mia opinione non ha importanza. Mi perdonerete? Ma certo. Forse fu lo studio di Shakespeare ad aiutarla a capire i personaggi, o l'istinto naturale di una donna verso ciò che è onesto, coraggioso e forte. Sta di fatto che mentre da una parte provvedeva a fornire i suoi eroi immaginari di ogni qualità possibile e immaginabile, dall'altra Jo stava scoprendo un eroe in carne ed ossa che la interessava, a dispetto di ogni umana imperfezione. Qual è la tua opinione sincera? Io sono un professore di filosofia. Io vorrei tanto sapere che cosa ne pensi. Dovresti scrivere attingendo dalla vita, dal profondo della tua anima. Non c'è niente qui dentro della donna che ho il privilegio di conoscere. Friedrich, questo è ciò che io scrivo. Mi dispiace molto che non sia all'altezza dei tuoi eccelsi modelli. Jo, c'è molto di più dentro di te, se troverai il coraggio di scriverlo. Quando Jo voltava pagina, non conosceva mezze misure. E da allora in poi si mise a scrivere racconti edificanti, moralistici, traboccanti di sentimenti elevati, biografie di benefattori dell'umanità. Offrì i suoi lavori a giornali e riviste e collezionò una serie di secchi rifiuti. Scrisse allora un racconto per ragazzi e se la sarebbe cavata onorevolmente se avesse cercato di andare almeno un poco incontro al gusto corrente. Ma non lo fece. Decise invece che avrebbe aspettato di essere più matura prima di tentare di nuovo. E nell'attesa, se non avesse trovato di meglio per mantenersi, avrebbe sempre potuto spazzare le strade, come diceva il professor Baer. Queste riflessioni erano comunque la prova che lo scivolare giù per l'albero della cuccagna le era servito a qualcosa. Mentre la sua penna restava in ozio, Jo imparava qualcosa di molto più importante del tedesco e costruiva le fondamenta di una storia più sensazionale di qualsiasi altra, quella della sua vita. Fu un inverno felice, quello, e anche piuttosto lungo, visto che aveva deciso di non tornare a casa fino a giugno. Quando arrivò, il momento della separazione fu doloroso. Poiché Jo sarebbe partita molto presto al mattino, preferì salutare tutti prima di andare a letto. La mattina dopo, nonostante il treno partisse all'alba, il professor Friedrich Baer si fece trovare alla stazione per un ultimo saluto. Lei partì confortata dal sorriso di quella faccia amica, da un mazzolino di violette e dal pensiero che le amicizie come quella erano un bene prezioso da conservare per tutta la vita. E poi perché abbattersi se non aveva ancora scritto libri importanti né guadagnato tanto denaro? L'inverno era finito e ora tornava a casa. Quell'anno Beth, che da quando aveva preso la scarlattina aveva sempre convissuto con una salute delicata, finì per ammalarsi gravemente. Non era più pallida del solito, ma era diventata così sottile che quasi sembrava trasparente, come se la sua essenza di creatura mortale andasse pian piano sfumando, facendola risplendere di una bellezza senza tempo e tesa all'immortalità. Entrando in camera di Beth, Jo trovò la mamma seduta sul bordo del letto con la mano che stringeva quella della figlia e capì tutto. Mami, non ho voluto che ti mandassimo a chiamare prima. Il dottore è passato un'infinità di volte, ma nessuno di noi può più fare niente, credo. E credo che abbia voluto aspettare te prima di... prima... Trascorreva giornate intere in quella stanza, gelosa di chiunque volesse condividere con lei l'assistenza della piccola Beth e insieme orgogliosa di essere stata prescelta per quel compito che considerava il più difficile ma anche il più grande che la vita potesse offrirle. Non parlavano mai della malattia, perché spesso sulla morte c'è, con le persone più care, un riserbo difficile da superare. A Jo sembrava a volte che un velo fosse calato tra il suo cuore e quello della sorella, ma quando tendeva la mano per sollevarlo, aveva la sensazione che in quel non dire vi fosse qualcosa di sacro e rinunciava, aspettando che fosse la sorella a parlarne per prima. Mi sento più forte quando sei vicino a me. Presto starai ancora meglio. Se Dio vorrà portarmi con sé, nessuno potrà fermarlo. Io non sono mai stata come voi. Non ho mai fatto progetti per le grandi cose che avrei fatto. Non mi sono mai considerata importante. Per esempio, una grande scrittrice come te. No, Betty, io non sono una grande scrittrice. Ma lo diventerai. Oh, Jo, mi sei mancata così tanto. Perché tutti vogliono andare via? Io adoro stare a casa. Però non mi piace rimanere per ultima. Adesso sono io quella che va avanti. Io non ho paura. Saprò essere coraggiosa come te. Ma so che avrò sempre nostalgia di te. Anche in cielo. Oh, Beth. No. Io non ti lascerò andare. Oh, la mia Jo. Jo non riusciva a parlare e per diversi minuti si sentì solo il sospiro del vento e il rumore del fiume lontano. Un gabbiano dalle ali bianche volava alto nel cielo e il sole si rifletteva sul suo petto argentato. Piangendo e pregando, la madre e le sorelle prepararono Beth per il lungo sonno che nessun dolore avrebbe mai più potuto interrompere, consolate solo dalla serenità luminosa che la morte aveva stampato su quel volto e che gli dava l'aspetto incorporeo di un angelo. Quelli che seguirono furono giorni bui, perché a volte si disperava al pensiero di dover trascorrere tutta la vita in quella casa troppo tranquilla, troppo vuota, con le solite faccende domestiche da sbrigare, qualche rara distrazione e il peso dei doveri che cresceva sempre di più. Ma un mattino Jo si mise alla scrivania e riesaminò tutti i suoi manoscritti lasciati a metà. Un'ora più tardi, la signora March si affacciò sulla soglia e vide sua figlia intenta a scrivere, avvolta nello spolverino nero, con l'aria assorta di una volta. Sorrise e si dileguò. Ma la cosa più commovente fu la felicità sul volto di Beth quando si chinò. Nei pochi minuti che seguirono circolò la voce che vi ho detto che mi hanno messo un vestito elegante. Mentre parlava, Jo si tolse la cuffietta. Jo, come hai potuto? Era nel tuo orgoglio. Jo non avrebbe saputo dire che cosa fosse successo dentro di lei. Ma nel racconto che lesse più tardi alla famiglia riunita, c'era qualcosa che andava dritto al cuore, che faceva ridere e anche piangere. Il segreto era che in quella storia tutto era vero e vissuto, umorismo e sentimento la rendevano viva. Maturata dall'amore e dal dolore, Jo scrisse altri racconti e li mandò per il mondo in cerca di nuovi lettori. Una sera al tramonto, Jo se ne stava a guardare il fuoco, da sola, immersa nei suoi pensieri. Lo faceva spesso, in quell'ora piena di intimità che precede il calore della notte, seduta su un coscino rosso di Beth, si immergeva nelle sue fantasie, progettava nuovi racconti o rievocava la sorella e le sembrava di sentirla più vicina. Quella sera Jo aveva un'aria triste, stanca. Il giorno dopo era il suo compleanno, giorno di bilanci. Il tempo volava e lei che cosa aveva concluso? 25 anni e le mani vuote. Su questo punto naturalmente sbagliava, perché aveva fatto molte cose e presto se ne sarebbe resa conto, ma lì per lì non riusciva a realizzarlo. La mattina successiva trovò sul tavolo della cucina un pacco ben confezionato. Sulla carta in basso, a destra, c'era l'indirizzo del professor Bear. Joe aprì con foga il pacco. Il mio libro. Stanno per pubblicare il mio libro. Anna! Anna! Stanno per pubblicare il mio libro. Che Dio ci aiuti. Ma non c'è una lettera. Com'è arrivato? L'ha portato un signore straniero. Un nome così difficile. Non riesco a ricordarmelo. Oh, no. Bor o Ber. Una Ber. Cosa così. Gli hai chiesto di aspettare? Ho creduto che fosse uno degli amici europei di Amy con un regalo di nozze. E gli ho detto che la signorina Marcia e il signor Lori vivevano nella casa accanto. Oh, Anna, ma perché? Allora ha detto che aveva un treno da prendere. Stava cercando di ricomporsi quando aprì la porta e guardò fuori. In fondo al vialetto c'era un signore alto e barbuto che, nella penombra, pareva quasi brillare. Friedrich! Friedrich, grazie per il mio libro. Quando non ti ho sentito, ho pensato che non ti piacesse. Oh, no. Leggere il tuo libro è stato come aprire una finestra sul tuo cuore. È così bello rivederti. No, io... Grazie, ma devo andarmene. Devo prendere il treno. Vado all'ovest. La mia nave salpa da Boston domani mattina. Sai, mia zia mi ha lasciato Plainfield. Non è un terreno, è una casa in realtà, una casa piuttosto grande. Non saprei che cosa farne se non una scuola. E voglio che sia un'ottima scuola, una scuola aperta a chiunque desideri imparare. Beh, allora mi servirà qualcuno che sappia insegnare. C'è niente che io possa dire per convincerti a restare. Il professore strinse la mano a Joe con un'espressione così solidale, con uno sguardo così profondo e partecipe, che lei si sentì immediatamente riconfortata, più leggera. Ti prego, non andartene così lontano. Joe, un nome così piccolo per una persona così grande. Puoi accettarmi? Con tutto il mio cuore. Ma io non ho niente da darti, le mie mani sono vuote. Non lo sono più adesso. Joe gli afferrò il braccio e lo guardò così a fondo negli occhi che non servirono altre parole per esprimere quanto sarebbe stata felice di percorrere al suo fianco il cammino della vita, anche se non avessero avuto altro riparo che quel vecchio ombrello. Quella fu una domanda di matrimonio fatta in circostanze senz'altro difficili, e anche se lo avesse voluto, il professore non avrebbe potuto inginocchiarsi con tutto il fango che copriva la strada. L'unico modo in cui poté esternare la sua felicità fu l'occhiata luminosa e il sorriso che regalò a Joe e che gli addolcì il viso. Rimasero abbracciati a lungo prima di accorgersi che la pioggia li aveva inzuppati come degli asciugamani. Allora Joe prese per mano il suo professore e insieme si avviarono finalmente verso casa. Testo tratto da Piccole donne e Le piccole donne crescono di Louisa May Alcott. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. Aha!